I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Parliamo ancora una volta di corruzione perché è un tema anche economico, oltre che morale. Sappiamo da sempre, infatti, che l'alta percezione dell'Italia come paese corrotto sia uno dei vincoli che impediscono e molte volte evitano gli investimenti esteri diretti nel nostro paese, oltre alla burocrazia e a un eccesso di tassazione. Il disegno di legge sulla corruzione arriverà a Palazzo Madama il prossimo 1° aprile, ma restano ancora molte tensioni tra i partiti della maggioranza. Che il provvedimento debba avere una maggiore urgenza anche nella sensibilità del governo lo dimostrano non solo oggi le nuove parole del presidente del Senato Grasso, che ha ricordato come i ritardi siano troppi e che la corruzione metta a repentaglio l'intera democrazia. Ma ce lo ricorda anche l'OCSE, che cita la classifica dei paesi in cui la percezione della corruzione nelle istituzioni pubbliche, sia nazionali che locali, è più alta. Ebbene, l'Italia è al primo posto. Il 90% dei cittadini italiani ha la percezione di una corruzione nelle istituzioni pubbliche, ripeto, sia di carattere locale che di carattere nazionale. Dopo di noi ci sono Portogallo e Grecia, ma per dare un'idea di quanto diversa sia l'Europa anche in tema di corruzione, la percezione più bassa si registra nel nord Europa. In Svezia solo 15 cittadini su 100 ritengono che la pubblica amministrazione e le istituzioni nazionali siano corrotte. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Ha fatto molto discutere, e i giornali di oggi se ne sono occupati ampiamente, la nuova norma voluta dal governo nel decreto legge antiterrorismo, grazie alla quale le autorità investigative avrebbero potuto acquisire dai computer dati in remoto con la finalità di contrastare appunto il terrorismo. La notizia è che ora il governo fa dietro front. Il viceministro Bubbico ha spiegato che se ne riparlerà nell'ambito del provvedimento per disciplinare le intercettazioni e il loro utilizzo, del quale il Parlamento si sta già occupando. Ma il tema resta e fa discutere e pone un quesito che ognuno si deve porre. A quanta privacy siamo disposti a rinunciare in nome di una maggiore sicurezza? Di certo l'idea che qualcuno possa entrare nei nostri computer rappresenta un cambiamento niente affatto virtuale. Con la norma che ora viene congelata, tra l'altro, queste intrusioni si sarebbero potute verificare solo con l'obbligo di autorizzazione del giudice, quindi in caso di sospetti rilevanti, ma anche per molte altre ipotesi di reato oltre a quelli di terrorismo, dal contrabbando allo spaccio di droga al traffico d'armi. La prevenzione e il contrasto del terrorismo sono evidentemente esigenze urgenti e fondamentali, come la cronaca di tutti i giorni ci fa capire. Tuttavia è importantissimo che queste esigenze siano bilanciate con quelle altrettanto importanti di tutelare la privacy. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.